Esercizio 2. Ascolta e ripeti ciascuna coppia dell'esercizio 1 da sinistra a destra e successivamente ascolta e ripeti le coppie da destra a sinistra. Tuta, tutta. Note, notte. Sete, sette. Moto, motto. Seta, setta. Fato, fatto. Bruto, brutto. Convito, convitto. Loto, lotto. Oliveto, olivetto. Tutta, tuta. Notte, note. Sette, sete. Motto, moto. Setta, seta. Fatto, fato. Brutto, bruto. Convitto, convito. Lotto, loto. Olivetto, oliveto.